Italia in controluce. 13.33 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, benvenuti all'appuntamento con la cronaca, le eccellenze ma anche i problemi del nostro paese, insomma le storie che ci parlano dell'Italia in controluce. Il coro della giornata oggi è decisamente intonato su Roma, Roma capitale, voci dal 140esimo anniversario della Breccia di Porta Pia che segna, come sapete, il passaggio dalla Roma cristiana alla Roma capitale del Regno d'Italia. Quelle ufficiali di voci, come per esempio il sindaco Alemanno e il presidente Napolitano, le abbiamo appena sentite nel giornale radio. Al microfono di Elisabetta Fiorito invece le voci della gente accorsa alla cerimonia con i suoi perché. Perché qui oggi alle celebrazioni di Porta Pia? Perché mi sembra comunque importante sottolineare questo momento per l'unità della patria e contro i frazionamenti che oggi stanno condizionando la politica italiana. Quindi insomma è una presenza un po' antileghista? Sì, diciamo di sì, per l'unità. Posso chiedere perché qui? Per vedere questa bella manifestazione, perché siamo italiani, siamo romani, coincide un po' il tutto tra l'unità d'Italia e la presa di Porta Pia e quindi mi piace molto essere qui. Una cerimonia significativa perché rappresenta l'unità dell'Italia e quindi sembra quasi doveroso, no? Ricordarlo. Roma è la più bella del mondo, perciò deve essere sempre la capitale. Bossi se ne stasse a casa sua. Lei? Ci vorrebbe una nuova Porta Pia. Dove? Dove la vogliamo fare questa breccia? Proprio qua, poi magari ci spostate di qualche centinaio di metri, così la smetto di rompere le scatole, i signori del Vaticano. Ah, lei quindi è qui in funzione di Unità d'Italia, liberazione dallo Stato teocratico. Esatto, bravo. Quindi vede sempre un'ingerenza della Chiesa? Siamo tutti cittadini del Vaticano ormai. È un doveroso omaggio, mi sembra, ai bersaglieri, all'Unità d'Italia. Questo momento così brutto, mi sembra che dovremmo essere più uniti tutti quanti. No. Che gli dice a Bossi? A chi? A Bossi. Gli dico che venisse qua a vedere come siamo noi, venisse qua a vedere come siamo noi romani. A Bossi una bella bandiera grandissima vicino a casa sua e se la guardasse, la ammirasse e un po' la dovrebbe onorare. Ma non è tutto rose e fiori, un gruppuscolo di radicali infatti ha contestato il clima ufficiale di celebrazione nel quale, sostengono loro, si perde il senso vero del 20 settembre 1870, cioè la rivincita, come sentivamo anche in qualche intervista tra la gente, dello Stato laico sul potere del Papa, che è ancora in qualche modo vivo e vegeto questo potere, almeno secondo quello che sostengono i radicali, che come sappiamo del laicismo fanno la loro bandiera. E così, mentre le autorità sfilavano nel massimo della concordia nazionale, qualcuno urlava queste voci che adesso sentiamo, strappando anche un commento del cardinal Bertone. Vaticano e partitocrazia, serve una nuova Porta Pia. Vaticano e partitocrazia, serve una nuova Porta Pia. Ma le contestazioni fanno parte della vita, no? Siete venuti qui per quale motivo? Ma siamo venuti perché siamo di fronte a un'opera di revisionismo storico evidente, in cui abbiamo sentito citare Pio IX, cioè il Papa Re, il Papa del Sillabo. Crediamo che con questo Vaticano, con questa partitocrazia, serva una nuova Porta Pia. Alemanno ha fatto il moderno Zuavo Pontificio in questo caso e si è prestato ad un'opera in nome di Roma Capitale di revisionismo che vuole cancellare la data del 20. Siamo radicali, io sono il segretario Mario Staterini dei Radicali Italiani, sono stato identificato addirittura precedentemente a qualsiasi manifestazione, per cui è wanted. Italia in controluce. E c'è un'altra storia in queste ore che è quanto mai legata a quella che abbiamo appena sentito e raccontato, cioè quella di Roma Capitale. Ci porta in provincia di Brescia. Via quel simbolo dalla scuola di Adro, togliete il sole dalle Alpi, dai banchi, dagli zerbini, persino dal tetto dell'edificio scolastico. Perché? Perché è il simbolo della Lega Nord, un partito politico, e la scuola invece è pubblica, è di tutti. Questa è la richiesta che si è levata da più parti, come sappiamo, e che ora che anche il ministro dell'istruzione Gelmini si è unito al coro, sembra proprio che sarà accolta. Insomma, il sindaco di Adro, l'autore di questa iniziativa, chiamiamola così, è sul punto di capitolare. Facile a dirsi, ma quanto costerà l'operazione? Roberta Pellegatta. Oggi alle 15 l'incontro a Milano tra il sindaco di Adro, Oscar Lancini, e il leader della Lega Umberto Bossi. Nel caso il senatur lo chiedesse, il sindaco leghista l'ha già assicurato, i simboli con il sole delle Alpi che campeggiano a centinaia nella nuova scuola Gianfranco Miglio verrebbero eliminati. Sono ovunque. Solo per i 10 grandi zerbini pare siano stati spesi 7.500 euro, per i cestini circa 6.500, senza parlare dei banchi e degli enormi simboli disegnati sul tetto. Gianmario Casali, capogruppo della lista civica di opposizione Linfa del comune di Adro. L'arredamento è stata un'aggiunta avvenuta negli ultimissimi mesi, in cui il comune di Adro ha fatto un bando per chiedere l'aiuto ai cittadini per pagare l'arredamento, perché l'arredamento non entrava all'inizio come spesa. Prevedentemente è stato chiesto un contributo alle famiglie, non sono tutte le famiglie di Adro, sono alcune famiglie di Adro, io penso un 10-15 famiglie, che hanno una buona disponibilità e che si sono accollate questo onere. Alcune hanno l'intitolazione dell'aula, alcune aule scolastiche. Nel caso tutti questi simboli venissero adesso tolti, chi si dovrebbe accollare la spesa e a quanto ammonterebbe? Silvio Ferretti, portavoce del Partito Democratico per il comune di Adro. Potrebbe costare fino a 30.000 euro se dovessero essere in qualche modo ritoccati anche i banchi, perché se dovessero essere semplicemente ricoperti i simboli dovrebbero cavarsela con molto poco, se invece dovessero essere rimossi trattandosi di banchi molto delicati il costo potrebbe salire, quindi potrebbe arrivare anche a 30.000 euro il costo totale di rimozione di tutti i simboli, sia dai banchi sia da sostituire gli zerbini, i cestini e soprattutto i simboli sui tetti della scuola, che è la spesa più elevata. Ci hanno detto che l'arredamento è stato acquistato grazie ai contributi di alcune famiglie di Adro, è così? Sì, è stato acquistato grazie al contributo di alcune, però la destinazione di questo contributo è per finalità pubbliche, quindi non si può sicuramente addebitare a queste famiglie, oltre ad aver contribuito alla scuola, la rimozione di questi simboli. Noi ci auguriamo che questa bravata sia pagata da chi l'ha fatta, non dai cittadini di Adro, e per questo è già pronto un esposto alla Corte dei Conti. Italia in controluce. Chiudiamo la puntata di oggi con un film, una pellicola sugli anni 60 realizzata con immagini di repertorio d'epoca e con un testo molto originale. Parliamo di 1960 di Gabriele Salvatores. Cristina Carpinelli. Memorie, ricordi, sollevati dalla nostalgia, spolverati dalla malinconia, che tornano con l'ingenuità di un'epoca a raccontarci chi siamo e forse chi saremo. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Gabriele Salvatores ha presentato gli anni 60 attraverso un montaggio di immagini e una corrispondenza epistolare avvenuta allora tra due fratelli. Due anni prima, Corrado Rizza, discografico romano, sfogliando l'archivio dell'Istituto Luce, aveva pensato la stessa cosa. Per questo, assieme al fratello, ha dato vita a Beat Parade, un documentario realizzato nel 2009 e uscito per ora solo sulla TV svizzera, nel quale voci fuori campo leggono lettere di ragazzi in un anno considerato da molti storico, il 1965. Sentiamo Corrado Rizza. Il 65 è stato un anno magico forse per Roma e anche per i giovani italiani. Piper, quindi Capelloni, la minigonna, questi giovani che stavano conoscendo per la prima volta la loro emancipazione si stavano scontrando inevitabilmente con le mentalità dei loro genitori che avevano vissuto la guerra e tutto quello che era insomma la drammaticità del periodo precedente agli anni 60. Era l'anno in cui sicuramente il famoso boom, no, si stava affacciando, no? Sono stata a Roma e a Piazza di Spagna e ho conosciuto un Capellone. È il ragazzo più dolce che abbia mai incontrato. Siamo stati tutto il giorno in giro con i suoi amici e poi la sera mi ha portato in un nuovo locale creato apposta per noi giovani, il Piper. Sono delle lettere che molto ingenuamente erano un po' le loro curiosità, le loro esternazioni, no? Che al direttore, no? Con la classica frase: caro direttore, oggi il mio ragazzo mi ha chiesto la prova d'amore, ma che cos'è? Ripeto, i giovani sicuramente all'epoca furono molto giudicati, no? Dai famosi Matusa, che sarebbero poi gli adulti, i genitori, però in effetti non hanno fatto altro che cercare di guadagnarsi uno spazio importante e poi gli anni comunque hanno dato ragione ai giovani, no? Ed è interessante vedere come i problemi dei giovani negli anni 60 forse sono o dei giovani o comunque anche degli adolescenti, ma anche degli adulti. Alla fine la disoccupazione, il boom che poi diventa un flop, no? Non so se termini inglesi, comunque le cose purtroppo si ripetono. Mio padre ha avuto un aumento di stipendio ed è ritornato a casa felice. Con mia madre hanno deciso di comprare una televisione nuova e il divano con le poltrone. Ma a cosa serve guadagnare più denaro se poi lo si deve spendere così stupidamente? E così mio padre continuerà a lavorare ancora faticosamente per comprare fra 5 anni un terzo televisore e un nuovo frigorifero. Mio padre è un automa. Non ha mai tempo per stare 10 minuti con noi figli. Odio il televisore, il frigorifero. La lavatrice, il televisore, equivalgono al corso d'inglese e all'arte terapia di oggi. Non valgono cioè niente se servono a coprire l'assenza di un padre o una madre. E con questa storia del film documentario di Corrado Rizza alle 13:44 minuti chiudiamo qua questa puntata di Italia in Controluce. Vi ricordo che potete commentare i nostri servizi, scriveteci anche le vostre storie, controluce@radio24.it, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchesi. Ci sentiamo domani all'edizione delle 6:30.